Steve a mis au point différents réservoirs. Et ci sono novità anche sul Heute Journal mit Klaus-Peter Siebler. La finestra sul cortile di Riccardo Chiaberge. Rieccoci e bentornati alla finestra sul cortile. Da oggi si cambia, le novità del palinsesto di Radio 24 riguardano anche noi e la nostra trasmissione non è più in onda il sabato pomeriggio alle 14, ma sempre il sabato alle 22:30 di sera. Rimane invece confermato l'appuntamento con la nostra replica ogni domenica mattina alle 8:30. In questa puntata la nostra finestra si aprirà sull'India di oggi e in particolare sulla rivoluzione che sta avvenendo nel campo dei costumi sessuali. Era dai tempi del Kama Sutra che non si vedeva tanto erotismo nei romanzi e al cinema. Ma parleremo anche del mondo di internet e dei blog e come questo stia rivoluzionando il nostro modo di comunicare e di scrivere. Stiamo diventando tutti grafomani? E come possiamo disintossicarci da questa nuova droga che si chiama blog alcolismo? Di questo ed altro parleremo in questa puntata della Finestra sul Cortile, ma intanto ascoltiamo che cosa prevede il nostro sommario. Stati Uniti. Nuove malattie per nuove tecnologie. Arriva la sindrome da blog. Tra i sintomi, l'irrefrenabile voglia di scrivere. Canada. Google ha impatto zero. Secondo un fisico di Harvard, le ricerche su Google sono 1000 volte meno inquinanti di quella in biblioteca. India. Ritorno al Kama Sutra. La letteratura contemporanea indiana riscopre l'erotismo. Inghilterra. Sempre più matrimoni in crisi per i soldati arruolati fra Afghanistan e Iraq. E l'esercito corre ai ripari. Iran. Nasce la BBC Persia, ma i servizi segreti iraniani sospettano che il nuovo canale televisivo sia un covo di spie inglesi. Stiamo diventando tutti grafomani e logorroici e la domanda che si pone Polly Frost sul mensile americano Atlantic. Questa nuova sindrome che lei chiama blogholism, cioè praticamente dipendenza da blog, è quella che ci sta prendendo un po' tutti, no? Stando continuamente tutto il giorno al computer a comunicare con i nostri corrispondenti via mail o via chat, oppure rispondendo ai blog, oppure aggiornando il nostro sito di Facebook. È praticamente diventata una specie di ossessione che ci sta travolgendo tutti, per cui non si smette mai di ticchettare sulla tastiera e di esprimere i nostri pensieri. C'era una volta, racconta Polly Frost, la sindrome della pagina bianca, quando non si riusciva a scrivere, quando gli scrittori erano come paralizzati dal terrore di iniziare un nuovo romanzo. Lei stessa aveva subito questa sindrome, racconta che era stata 14 anni a pensare per il suo primo romanzo ed era riuscita soltanto a scrivere due frasi. Tant'è vero che proprio da questa esperienza aveva maturato la convinzione che ci fosse una cura, una terapia per uscire da questa paralisi e ne aveva fatto quasi una professione, un metodo Polly Frost per liberare lo scrittore o la scrittrice che è in voi, Releasing the Writer Within. Erano dei seminari che Polly Frost organizzava negli anni 90 nei circoli New Age, in particolare a Sedona in Arizona, dove come sappiamo è nato il movimento New Age, e c'era tutta una tecnica per cui si facevano delle mappe mentali, si cercavano di condurre delle sessioni lezioni si teneva una penna e un taccuino vicino al letto per trascrivere tutti i pensieri che via via venivano alla mente, e questo era un modo, insomma, per liberare la capacità di scrivere. Adesso, dice Polly Frost, il problema è inverso, perché si scopre che c'è troppa scrittura e c'è troppa comunicazione dappertutto. Basta accendere il computer e collegarsi con la propria posta elettronica per vedere, insomma, la casella ingorgata di messaggi. Basta collegarsi a qualsiasi sito di Facebook piuttosto che di chat per vedere quante persone online chiedono la nostra attenzione o trasmettono i loro pensieri. Quindi è il momento di inventare una nuova tecnica proprio per reblock, per bloccare di nuovo lo scrittore scatenato dalla facilità determinata dalle nuove tecnologie. E suggerisce Polly Frost soprattutto rivolgersi ai familiari o ai parenti che criticano tutte le cose che noi scriviamo, in modo che ci scoraggino dallo scrivere, poi soprattutto smetterla di firmarci con uno pseudonimo e così via. Ci sono vari altri suggerimenti in questo divertente articolo su Atlantic, ma intanto salutiamo il nostro ospite, Andrea Baiani, scrittore, collaboratore del supplemento domenicale del Sole 24 Ore. Ciao Andrea. Ciao, eccoci qui. Ebbene, tu hai letto questo articolo di Polly Frost. È piuttosto divertente, ma anche perché secondo me individua un tic della nostra epoca, un'ossessione. Certo. Lei parla appunto di dipendenza, è come se ci fosse un nuovo modo di essere tossici da parole e da comunicazione con gli altri, no? Certo. Quindi la gente cerca costantemente, le persone, tutti noi cerchiamo costantemente, non solo riceviamo informazioni, ma cerchiamo qualsiasi spazio vuoto disponibile per riuscire a metterci in contatto con qualcun altro, perché è vero che ci sono i blog, c'è Facebook, e poi nei blog non sottovalutiamo il fatto che ci sono sì le persone che scrivono delle cose, quindi producono dei contenuti per i blog, ma la cosa più interessante, lo spazio più interessante dei blog sono i commenti, ovvero certo. Il fatto che una persona pubblica un pezzo e poi sotto le persone cominciano a discutere, centinaia e centinaia di persone che dibattono come se aprissero i tombini, si mettessero sotto e si mettessero a discutere. Poi normalmente partono dall'argomento del testo iniziale, ma poi divagano e parlano di qualsiasi cosa, e quindi c'è questa tossina da comunicazione. Beh, è una tossina che però ha anche dei lati positivi, perché è una democratizzazione, no? Cioè io stesso ho un blog nel sito del Sole 24 Ore e a un certo punto quelle che sono le mie opinioni poi equivalgono a quelle di qualsiasi lettore. Non è che noi montiamo più in cattedra, no? Siamo tutti sullo stesso piano. Infatti questa è la vera rivoluzione da questo punto di vista, per cui è bellissimo il fatto che finalmente non ci sia, come dire, il patentino di chi può dire la sua, ma esiste, come dire, un gran consesso di persone che dibattono e discutono. Polly Frost individua il lato buffo di questa cosa, cioè il fatto che le persone poi alla fine non ne possono più fare a meno, è come se, uscendo un attimo dalle tecnologie, noi uscissimo di casa e chiunque incontrassimo gli dicessimo: sai cosa ho pensato? Sai, ho letto quell'articolo. Certo. E trasferito nel rapporto interpersonale diventerebbe, come dire, una specie di stranissima Babele. E poi ecco, diciamo che i due aspetti negativi sono, da un lato, sui contenuti, cioè il fatto che spesso questi pensieri, questi aneddoti o le ricette di cucina che vengono messe online non sono affatto interessanti, no? Le barzellette non fanno ridere, le battute non sono particolarmente originali, vero? Poi lì è anche questione di saper scegliere, di saper trovare, perché magari in tante ricette poco interessanti c'è quella che invece trovi solo lì perché è frutto di una visione culinaria di qualcuno, no? Per cui certo. È nel mare magnum che bisogna riuscire a distinguere, riuscire a capire quale può essere la cosa interessante, che indubbiamente può esserci. È indubbio che la massa è tanta, sia la massa che scrive sia la massa di informazioni prodotte. Poi c'è un altro aspetto, insomma, che è quello invece della forma, e tu come scrittore dovresti essere particolarmente sensibile a questo, soprattutto come scrittore vicino al mondo dei teenager. Dice: smettete di usare abbreviazioni. Ma quella delle abbreviazioni in effetti è abbastanza buffa. E io mi rendevo conto, quando ho avuto a che fare per un lungo periodo con i ragazzi, che loro ad esempio erano molto restii ad utilizzare, per dire, la mail mail rispetto a Messenger. La mail perché richiedeva di argomentare di più, certo. Di argomentare un pensiero, e invece Messenger portava a buttare fuori immediatamente pezzi di frase. Naturalmente, insomma, questo è un pericolo, tra virgolette, da tenere a bada, cioè a fare in modo che l'italiano tenga tutto intero ancora. Bene, noi ringraziamo Andrea Baiani. Grazie a voi. A presto. A presto. E restiamo in tema di nuove tecnologie, ma andiamo sul quotidiano canadese The Globe and Mail, dove si racconta di uno studioso, un fisico dell'Università di Harvard, Alex Wistenegross, che sta facendo una ricerca sul consumo di energia legato alle motori di ricerca di internet. E ha scoperto Wistenegross che facendo una ricerca su Google si consuma pochissima energia. Tanto per fare un paragone, un chilometro in macchina genera tanti gas serra quanto 1000 ricerche su Google. Quindi si raccomanda, invece di andare in biblioteca, agli studiosi, usate Google. Google, insomma, rovina la vista e le dita, forse anche il nostro cervello, ma in compenso salva l'atmosfera. E ora ci spostiamo in Inghilterra, dove il capo dell'esercito, generale Richard Dennett, ha lanciato un grido di allarme per cosa? Per la situazione familiare dei soldati britannici impiegati in Iraq e in Afghanistan. Il fatto che questi soldati debbano stare via da casa fino a 30 mesi di seguito incide sulla stabilità dei loro matrimoni. Insomma, invece di esportare la democrazia, si sta importando il divorzio. La finestra sul cortile. Desire Between the Bookends, desiderio tra i fermalibri, è il titolo di un articolo di Kushwant Singh su questo numero di Outlook India, un numero speciale che ha un titolo piuttosto sorprendente per un settimanale indiano, Sex on the Run, il sesso all'assalto, e che è dedicato proprio a questa inondazione di Eros che pare caratterizzare questa stagione della letteratura, del cinema indiano. Kushwant Singh, che è poco noto in Italia, è considerato il patriarca della letteratura laica indiana, ormai novantenne, e lui stesso si autodefinisce DOMOD, che è un acronimo per Dirty Old Man of Delhi, cioè vecchio sporcaccione di Delhi. E questa definizione deriva dal fatto che nelle sue storie, nei suoi romanzi, quello tradotto in italiano più noto è Quel treno del Pakistan, lui spesso si sofferma su scene di sesso esplicite, un'usanza poco diffusa nella letteratura indiana prima di lui. Nell'articolo Kushwant Singh distingue quattro periodi della letteratura indiana rispetto all'Eros, e distingue il periodo dell'antichità, il periodo insomma del Kama Sutra, quando appunto lui scrive i nostri antenati davano al sesso come alla più potente emozione nella vita umana l'importanza che esso merita nei loro scritti, ma anche nei dipinti e nella scultura. Basta pensare ai templi di Khajuraho e di Konarak, dove si vedono appunto bassorilievi che rappresentano uomini e belle donne che così si accoppiano in abbandono, e scene d'amore molto esplicite che spesso incuriosiscono i visitatori occidentali. E poi ci fu invece il periodo islamico, il periodo della dominazione mogul, in cui viceversa prevalse la legge musulmana che vietava ogni riferimento alla vita sessuale. E poi il periodo britannico con il puritanesimo vittoriano. E soltanto con il periodo successivo all'indipendenza che la narrativa indiana incominciò a misurarsi con la realtà delle storie d'amore, delle storie di sesso, anche se per molto tempo, scrive Singh, nei romanzi si mettevano degli asterischi al posto delle parole che si riferivano alla vita sessuale o agli organi sessuali. E soltanto in tempi recenti, dice, grazie a Salman Rushdie e ad altri autori, si è passati dal puritanesimo perbenista ad una letteratura più liberata. E in particolare tra gli autori recenti, Singh cita Shashi Tharoor's The Great Indian Novel e Richard Krasta il Kama Sutra riveduto e corretto, che è stato tradotto anche in italiano. Ma intanto ci ha raggiunto il nostro ospite, che ringraziamo di essere qui con noi. Ben trovato. Namaste, visto che parliamo di India. Ecco. Salutiamoci. Secondo la tradizione. Secondo la tradizione. Ecco, Giancarlo De Cataldo, tutti lo conosciamo, magistrato e scrittore, autore di romanzo criminale, è uscito da poco il suo nuovo libro, che è intitolato L'India, l'elefante e me, pubblicato da Rizzoli, che è un reportage sostanzialmente, no? Un diario di viaggio nell'India misteriosa. Con tante altre informazioni e annotazioni. A me è successo di impattare l'India, prima scontrarmi, poi appunto prenderla bene per il verso giusto, quindi arrendersi all'India, dico io, ed è una, come dire, è nata questa passione che adesso insomma va avanti da un po' di tempo. E poi è impossibile non essere contagiati dall'India. Sì. Questo diciamo è una sua vena che conoscevamo di meno, insomma, no? Perché ci aveva abituato più al noir che al reportage di viaggio. Ma sempre ragionando in termini indiani, diciamo che Shiva, che è il dio che si diverte a mettere pepe, mi ha messo il pepe del viaggio. Ecco. Mi ha allontanato un po' dal crimine, ecco. In questo articolo, in questo fascicolo speciale di Outlook India, si parla appunto dell'eros nella società indiana di oggi, ma anche insomma nella tradizione indù. Per esempio, ecco, noi abbiamo come occidentali un'idea del Kama Sutra abbastanza banalizzata, come una specie di manuale di ginnastica erotica, no? Mentre è tutt'altro, è un percorso iniziatico, no? Un manuale di esercizi, se vogliamo, che non sono solo corporali ma anche spirituali. Ma in tutta la grande filosofia indiana corpo e mente perseguono e inseguono diciamo una frattura della dualità, quindi un percorso di conoscenza unitario, che anche lo yoga noi lo viviamo come, certo, impropriamente una pratica, una serie di esercizi che ci fanno stare meglio, più agili, più stabili, eccetera. In realtà è una disciplina interiore, una disciplina ed anche uno stile di vita. I templi a cui faceva riferimento l'articolo di Kushwan Singh contengono dei bassorilievi, soprattutto i bassorilievi di Khajuraho, sono veramente impressionanti, perché è una pura e gioiosissima pornografia. tri, etero, gay, post, trans, insieme, contro, sopra, sotto, c'è veramente di tutto e di più in una maniera assolutamente gioiosa, totalmente impudica, ma nel senso di totalmente priva del peccato. Sì, quindi innocente, no? Se vogliamo. Totalmente, quasi assolutamente innocente. Come una specie di Eden indù. Sì. Sì, o addirittura secondo alcuni, diciamo, prevedico, cioè addirittura precedente poi alla sistematizzazione della cultura della religione induista, e quindi ancora più antica di quanto noi possiamo immaginare. Quindi Eden, giustamente. Ecco, anche lei è d'accordo che l'India di oggi sta diventando libertina, o è semplicemente la liberazione del ruolo della donna, le pari opportunità, insomma l'affermazione di una nuova generazione di donne più libere, più emancipate? Ma per quello che ho potuto vedere io, tanto ovviamente in un'esperienza limitata di viaggio, però anche mantenendo dei contatti, parlando soprattutto con molte donne, ci sono due grandissime spinte contrapposte. Una è dovuta alle quote che sono applicate massicciamente, quote diciamo riservate nelle sedi politiche alle donne, ed è un attivo e massiccio intervento delle donne nella vita politica, nella vita sociale, nella vita di gestione, aiutate in questo dalle leggi molto di più che in tutti i paesi occidentali, da un lato. Dall'altro lato c'è la constatazione che questo fenomeno è quasi esclusivamente limitato alle grandi città. Ora, in certo, grandi città sono alcune grandissime, sterminate, Mumbai e Delhi, altre sono grandi nel senso di veramente grandi, appunto quella che noi chiamiamo Calcutta o certo, delle conurbazioni pure gigantesche, esatto, ecco, megalopoli. Lì c'è un livello di avvicinamento, se vogliamo, anche all'Occidente, o di desiderio di avvicinamento all'Occidente molto maggiore che non nelle campagne o nei villaggi, specialmente in alcune regioni certo. Tribali dove invece persistono, tribali non in senso dispregiativo, ma perché proprio la Costituzione indiana prevede un determinato status per popolazioni definite tribali, quindi in senso tecnico e non offensivo per nessuno. Ecco, lì invece il peso della tradizione è molto forte, però nello stesso tempo il peso della tradizione è forte, della tradizione della religiosità indiana, sono fortissimi anche all'interno delle classi più evolute, anche all'interno di questa democrazia, insomma delle punte più avanzate di questa democrazia che in fondo è numericamente la più grande democrazia del mondo. Ecco, dato che il tempo è tiranno, dobbiamo avviarci alle conclusioni, potremmo dire che l'India in qualche maniera sta superando il mondo occidentale anche, non soltanto nel campo economico, ma anche nel campo dei costumi sessuali, rispetto per esempio alla puritana America. Come nota Singh, certe battute che si fanno negli ambienti accademici indiani non si potrebbero fare nei campus americani dove vige il politically correct. Non conosco gli ambienti accademici indiani, ma la sensualità dei corpi che si respira nell'aria è veramente prepotente in India. Bene, noi ringraziamo Giancarlo De Cataldo, alla prossima. A presto. Dall'Iraq all'Iran, le autorità di Teheran sono in allarme per un nuovo canale in persiano della BBC. E l'accusa degli Ayatollah è che il BBC in realtà voglia reclutare in questo modo delle spie contro il regime iraniano. Il portavoce della BBC, Mike Garner, ha replicato che l'unico obiettivo della rete britannica è di raccontare gli avvenimenti mondiali in una maniera imparziale e indipendente. Probabilmente è proprio questo che disturba i potenti di Teheran. E per questa puntata è tutto. Ringrazio Daniele Casagrande, Laura Marchesi e Vittoria Mussini in redazione, Fabio Cantadori in regia. Riccardo Chiaberge vi dà appuntamento a sabato prossimo, stessa ora.